amore. L'epidermide proviene da una banca della pelle americana. Si apre il museo dell'uguale. Falsi, copie e cloni dal Rinascimento all'epoca virtuale. I due donatori decidono di divorziare. A chi spetta l'affidamento degli embrioni? All'Università di Edimburgo dei ricercatori hanno messo a punto una patata che si metterebbe a luccicare quando ha bisogno d'acqua o di concime, grazie ad un gene fluorescente estratto da una medusa, per fare un passo verso l'immortalità. Errore, il segnalibro non è definito. La testa completa è ancora tabù. I tuoi genitori ti hanno distrutto la vita? Erano alcolizzati, molestatori di bambini? Non hai mai avuto una chance? Bene, la clonazione umana ti dà l'opportunità di partecipare alla scelta del tuo clone. Pianta di tabacco, resistente ai parassiti, grazie ai geni dello scorpione. Trovo personalmente disgustosa la produzione di esseri umani senza testa, ma mi rassegno ad accettarla vista la scarsa disponibilità di ricambio. La testa completa è ancora tabù. La clonazione umana può migliorare le relazioni genitori-figli. Ma dove? Al suo posto. Bravo. Giusto. Nella seconda metà del Novecento cambia completamente il concetto di purezza e di contaminazione. Dobbiamo pensare che il fantasma di Darwin esce dai saloni della biologia tradizionale ed entra nella cultura tradizionale. E dobbiamo vedere questo, che sempre di più si parla di contaminazione, di brudazione, di mutazione, e i concetti di purezza, di essenza vengono in un certo senso messi in soffitta. Questo è un passaggio epocale molto importante. Diciamo che il concetto di ibris, che prima veniva visto come peccato contro l'armonia, l'equilibrio primigenio, viene completamente messo in soffitta. Cioè sempre di più pensiamo che la vita sia un non equilibrio, sia contaminazione, sia incontro con l'altro. Prima avevamo dei concetti molto separati, cioè delle essenze, delle categorie, che in un certo senso vivevano di luce propria e in maniera autarchica. Oggi sempre di più invece si vede come ogni essere vivente si nutre della presenza dell'altro. Amleto, dov'è Polonio? È a cena. A cena? Dove non mangia, ma dove viene mangiato. Ha su di sé tutto un parlamento di vermi politici. È verme dell'imperatore della dieta. Noi ingrassiamo ogni sorta di bestie per ingrassarci e ci ingrassiamo per i vermi. Un re grasso e un paziente magro sono due pietanze di uno stesso basso. Si dice tutto là. Ahimè. Un uomo può pescare con un verme che si è mangiato un re e mangiare il pesce che si è nutrito di quel verme. E che vuoi dire? Solo questo. Che un re può fare un bel viaggio nelle budella di un pezzente. Amleto? Dov'è Polonio? È in cielo. Manda qualcuno a cercarlo? Ah, se non lo trovano là, cercatelo nell'altro posto, tu stesso. Lo spettacolo è stato composto attraverso il mettere insieme un insieme di frammenti più o meno lunghi, alcuni sono quasi delle piccole cellule, come se noi estraessimo dal corpo vivo delle letterature del mondo contemporanee ma anche arcaiche dei piccoli elementi, dei geni, delle cellule, non so, diciamo c'è un po' un rispecchiamento con la pratica attuale che si fa, si sposta un'informazione genetica da un individuo a un altro. Ho freddo. Freddo. Comunque, meno male, Come sarebbe meno male? D'accordo, deve essere freddo, sì. Così è troppo, no? Io mi sono abituato. Buckingham, Davvero non ti ricordi più niente? Qualcosa sì. Prova a dire. Cosa? Ma che ne so, così, no, dei ricordi. Questo, che non ti sopportavo. A me. Già. A me non mi sopportavi. Già. E perché? È facile, mi trattavi male. Io? Già. Ma io tuo padre? Su questo avrai da ridire. Io tua madre? Anche su questo avrei da ridire. Ma dillo, no? Me lascia perdere. È acqua passata. Però l'idea non era male. Poterci mantenere così per sempre. Facci un viaggetto nel futuro ancora, io e te. Non ho più voglia di scherzare. Oh! Guarda che se io mi devo abituare al freddo, tu ti devi abituare a me. E a queste schifose uova? Speriamo che almeno siano utili. Non è che ci metteranno lì dentro? Ma certo, idiota! L'esperimento è questo. E quando? Questo per ora non lo sappiamo. Di là stanno ancora studiando. Di là? Di là dove? Io non vedo nessuno. Loro ti vedono. La biotecnologia sta prospettando l'idea che attraverso la clonazione si possa rifare l'individuo, il soggetto, e comunque un soggetto con la stessa identità genetica. Oggi sappiamo che identità genetica e identità fenotipica, cioè del soggetto, non sono assolutamente sinonimi. E nonostante tutto comunque la paura c'è, una paura che è stata alimentata in tanti anni dalla narrativa, dalla letteratura, dalla filosofia. Pensiamo per esempio agli anticorpi, i famosi ultracorpi, pensiamo alle danze macabre, questa idea del doppio che comunque ci annichilisce, ci toglie identità. Oggi due sono i grandi filoni che comunque alimentano questo immaginario: da una parte l'idea di clonare l'identità genetica dell'individuo, dall'altra l'idea di fare uno scanning della mente di un soggetto, il cosiddetto mind uploading. E tutte le volte che noi andiamo a lavorare sulle biotecnologie, sulla bioinformatica, c'è dall'altra parte una riduzione di identità. L'identità assume sempre un ruolo sempre minore e sempre di più il soggetto si sente investito, si sente aggredito dal mondo esterno. Però dobbiamo dire che andiamo verso un mondo dove sempre di più si deve parlare di multividuo, non di individuo. Niente protesi, davvero? Mi pare proprio di sì. Sì? Niente motivazioni, unghie finte, toupé, bypass, cellulari, niente? Che c'entra? Io sono io. Io invece siamo noi, o se preferisci io... E la mia, bang! Vedrai, vedrai, Batman, vedrai, se tra un po' te ne andrai in giro nudo per le strade, forse molto più probabilmente lo farai a casa tua, dove potrai disporre di tutti i tuoi pezzi lì attorno a te. Ma pensa, la testa sul tavolo, il braccio sulla sedia, i glutei sul batter, e il fegato. Ah, il fegato nell'altra stanza. E tu nudo lì, anzi tutti i tuoi antenati, tutti i tuoi discendenti in vitro, lì in una bella vitrinetta tra la sambuchina e la manovetta. E tu nudo, lì, nudo, nudo, un animale protesico o proteico, piuttosto che prometeico. Madre. E il confine tra il nostro corpo e il mondo, il confine tra l'uomo e la natura, in questi anni ha subito, come dire, uno shock, nel senso che il corpo umano, il nostro stesso corpo, lo vediamo ormai come una sintesi, un incrocio di elementi che sono naturali e artificiali. E questo è in progressione esponenziale e quindi dobbiamo fare i conti con questo. E il teatro, che si è sempre chiesto, e soprattutto nel Novecento, quali erano i propri confini del teatro, e i confini del corpo, e i confini dell'io, della soggettività e così via, in qualche modo credo che doveva fare i conti con queste nuove prospettive. La vita nella morte. morte viva. Noi colpito della vita, nostra sorte filammo a questa notte. E più forte il sogno della vita, se la morte è a vivere ci aiuta. Ma la vita non è vita se la morte, morte è nella vita. È la morte. Morte non è finita, se più forte che lei vive la vita. Ma se nella vita viviamo la nostra morte, nella vita viviamo solo la morte. Morte e vita, la morte è nella vita. Vita morte, la vita nella morte. Due sono i grandi filoni di ricerca di unione tra informatica e biotecnologie. La prima è la bioinformatica. La bioinformatica è lo studio all'interno di proiezioni tridimensionali dell'immagine delle strutture organiche, quindi di proteine, e quindi la possibilità di modellizzare nuove proteine e quindi consentire a fare la cosiddetta ingegneria proteica, cioè costruire proteine ex novo, totalmente inventate, da cui poi attraverso la trascrittasi inversa e altre procedure si riesce a costruire un DNA artificiale. Alcuni studiosi pensano di poter, attraverso l'ingegneria proteica, costruire un organismo completamente nuovo, quindi un vero e proprio genoma completamente artificiale. L'altro grande filone è quello della biocomputing. La biocomputing utilizza molecole organiche, che soprattutto DNA, da cui DNA computer, oppure a molecole proteiche, per realizzare delle strutture computative, cioè dei veri e propri computer, che hanno superato la tecnologia al silicio e utilizzano appunto le molecole organiche come chip. Ora, il biochip permette di fare i cosiddetti calcoli massimamente paralleli, cioè consente di superare tutte quelle strettoie che sono date alla computazione sequenziale, e quindi sicuramente un DNA computer ha un potenziale molto più alto che un DNA al silicio. Oggi le difficoltà saranno appunto nel organizzare un sistema, un hardware organico, però alcune ricerche sono estremamente incoraggianti. Quindi con molta probabilità nel futuro avremo a che fare con dei computer biologici, cosiddetti biocomputer, e dall'altra parte i computer avranno la possibilità di modellizzare sempre di più le strutture organiche e quindi di aiutare a progettare il biologico. Tutto questo ci fa pensare che sicuramente le tecnologie del XXI secolo saranno molto diverse dalle tecnologie del Novecento. Il Novecento aveva tecnologie fredde, inorganiche, figlie della rivoluzione della fisica di inizio secolo, mentre invece le tecnologie del XXI secolo, molta probabilità, saranno organiche, saranno calde, saranno umide, saranno tecnologie quindi dell'organico, frutto appunto della rivoluzione biologica della seconda metà del Novecento. Si fa? Si mangia, come vedi. E quali buone vivande avete? Questo poco di carne. Carne? Domestica o selvatica? Domestica, anzi, del mio buon figliuolo. Hai tu per figliuolo un vitello come lo è per Pasifae? La madre del Minotauro, idiota. Non un vitello, ma un uomo, come lo ebbero tutti gli altri. Mangi tu la tua carne propria. La mia propria no, ma ben quella di costui, che per questo uso l'ho messo al mondo e preso cura di nutrirlo. Per uso di mangiarla. Che meraviglia! E la madre poi penso di mangiarmela presto. Stupefacente, Babylon! Un progresso! Come si mangia la gallina dopo aver mangiato le uova? Non me l'aspettavo da te, Babylon. Non me l'aspettavo. Mettiamo in una sorta di feedback, di strana dissonanza, queste informazioni scientifiche e parascientifiche con un sostrato mitologico e metaforico, letterario, filosofico, religioso, eccetera, che ha radici molto antiche. Sono gli antichi sogni, le antiche paure, gli antichi timori dell'uomo nel confrontarsi con il proprio corpo e con il non umano. Buckingham, questo braccio era mio. Sei pazzo, l'ho pagato un sacco di soldi. Buckingham, vuoi che io non riconosca il mio braccio? Ma ti dico che è nuovo di zecca, ho anche la garanzia. Buckingham, solo il mio braccio aveva questa marca di peli. E poi... Senti, che te ne pare? È uguale. Ma io l'ho preso da Bonfanti. Bonfanti? Ma che è un riciclatore di fama universale, lo sanno dappertutto, anche i bambini, idiota! Di un clone che non sei altro, che si è fatto inginocchiare anche stavolta. Buckingham! Ma tu lo sai che quando io ero inserviente questo braccio lo infilavo dappertutto? Misuravo la temperatura delle vasche di placenta, sturavo gli scarichi della liposuzione, misuravo lo spessore dei blocchi di concime. E questo dito qua? Io ho smesso di mettermelo nel naso. Solo quando mi sono comprato questo nuovo, sai? E tu ricordi, no? Che il mio naso si decompone un tanto al giorno.